un salto di questo tipo. E poi abbiamo sempre proceduto con molta lentezza perché, insomma, la coscienza, ecco, di questi limiti che derivano a, non solo a noi ma a tutte le strutture italiane, dalla situazione che ho precedentemente cercato di accennare, induce ad avere molta paura, ecco, molto timore. D'altra parte, quella che era la nostra diagnosi originale, ecco, nei seminari che abbiamo fatto dal 1980-1981, ricordo ormai, purtroppo sono passati tanti anni che è veramente anche un po' triste ricordarlo, ma e poi che hanno confluito nell'85, nella prima edizione del volumetto sulle visite pastorali, dicevo, la prima constatazione è che le esperienze di tipo editoriale, insomma, sia con l'edizione integrale delle visite, sia quelle tramite registri, rivelavano dei limiti intrinseci notevolissimi, insomma. Nonostante le benemerenze degli istituti, ricordiamo l'Istituto di Padova, l'opera del professor Gabriele De Rosa, soprattutto, eccetera, il Tesauro Ecclesiarum Italiano, eccetera, eccetera, tutte queste iniziative. Dei limiti non derivanti certo dall'impegno e dalla capacità di coloro che le avevano iniziate, messe in piedi, ma dalla intrinseca difficoltà, per cui da una parte il registro è quello che non permette assolutamente una lettura molteplice della fonte, insomma, ecco. In qualsiasi modo è una delle tecniche che appunto uccidono le utilizzazioni possibili che non sono ancora in mente di colui che fa il registro, insomma, mentre per certe fonti unidirezionali il registro è ancora possibile, epistolari, eccetera, eccetera, insomma, ad ogni modo sarebbe lunga discussione, ecco, per le visite pastorali questo rappresentava dei limiti fortissimi. In secondo luogo, la pubblicazione invece integrale portava a costi e anche a difficoltà di utilizzazione pazzesche, insomma, ecco, perché abbiamo visto tutti i volumacci enormi, naturalmente questo dipende dal tempo, e qui quello che dicevo prima sulla tensione diacronica deve essere sempre tenuto presente. Sappiamo tutti che le cosiddette visite pretridentine, io dopo quello che ho detto sulle, potevo parlare poi di Lutero e la visita, ma questo lasciamo perdere, preferirei dire appunto pre-cinquecenteschi o in qualche modo prima della metà del Cinquecento, i testi sono molto limitati e quindi possono anche dare adito e meritoriamente ad edizioni integrali, anzi. E dopo appunto la situazione diventa pressappoco impossibile, insomma, ecco, perché la mole della produzione. Ecco, quindi di qui è nata sempre questa nostra attenzione, diciamo, prudente e timorosa di fronte alle difficoltà enormi, e che anche oggi presentiamo con molto tremore e timore, insomma, ancora in questa riunione, e la nostra decisione di sperimentare, di vedere se, particolarmente attraverso gli sviluppi che ci sono avuti poi negli ultimi anni e che noi di anno in anno abbiamo in qualche modo percepito, dello sviluppo dell'informatica, dell'uso del calcolatore applicato alla ricerca storica, ecco, se attraverso questi strumenti, ecco, noi non riuscissimo in qualche modo, e con uno sforzo congiunto da parte degli archivisti ecclesiastici, che diventano poi e devono diventare i principali protagonisti di un'impresa del genere, insomma, e interessati nelle varie regioni, a cui noi potremmo fornire una struttura di servizio, chiamiamo così, insomma, ecco, come istituto storico italo-germanico, una struttura di servizio che è legata, potrebbe essere legata alla città stessa di Trento, come città del Concilio, ecco, mi pare che c'è una storia appunto che si incrocia con Trento, è proprio la storia delle visite pastorali, insomma, ecco. E potremmo, ecco, fornire una struttura di servizio se appunto si riesce a ottenere quel coagulo di forze minimo per poter partire per un'iniziativa di questo genere. Turchini non voleva, ma la proposta la proposta utopica massima, insomma, ecco. Poi dopo io credo che ci sia lo spazio per dare una certa utilità al nostro incontro anche sulla base di risultati molto molto minori, insomma, ecco. Una proposta massima che io definisco appunto come utopica potrebbe essere la formazione di una banca dati qui o altrove di microfilm integrali, quando si può, della serie delle visite pastorali delle varie diocesi italiane, primo punto. Secondo punto, una edizione di inventari computerizzati a livello diocesano e regionale, dico diocesano, diciamo regionale su base diocesana, insomma, ecco, sostanzialmente per intenderci. Perché dovrebbe trovare appunto la confluenza tra ricercatori e anche aiuti a livello anche finanziario, diciamo pure, insomma, in ogni caso, trovare un suo organamento a livello regionale. Terzo punto, una serie invece di studi esemplari di approfondimento anche analitico delle visite, che possano appunto costituire dei modelli più completi di quelli che noi non abbiamo fornito già negli esempi che sono stati dati nel volume, di un'analisi interna di queste fonti. Ecco, come dico, questa è la proposta di tipo utopico, ecco, e poi dopo appunto si può realizzare in parte, si possono fare partire invece dalla coda, fare alcuni studi esemplari, se non abbiamo la forza di costruire dall'inizio una rete più complessa, eccetera. Ma volevo buttar lì anche come provocazione, insomma, questa di fronte a voi che studiate davvero le visite e non siete profani come me, perché voi comprendeste in qualche modo il senso, ecco, forse siamo abbastanza coscienti, ecco, come ho detto prima, delle difficoltà, eccetera, ecco, ma che il limite delle possibilità di intervento, insomma, di costruzione insieme di un'iniziativa di questo tipo è veramente un limite molto, molto avanzato, ecco, che potrebbe richiedere anche l'impegno, possiamo dire anche quasi per alcuni decenni, insomma, ecco, non è un impegno certo richiudibile in uno spazio di anni. Se trovassimo una solidità sufficiente per poter avviarci su questa strada, allora bisognerebbe cominciare a costruire i primi piloni tra appunto archivisti ecclesiastici, CNR e, dico, da parte nostra c'è la più grande disponibilità nella coscienza dei limiti di questo, di questa struttura e di questo istituto. Io ho finito questa mia prefazione, che è venuta più lunga di quanto pensassi, e do la parola a Turchini per la introduzione vera e propria. A me tocca il compito di proseguire un discorso, ahimè, Prodi ricordava il seminario dell'81, se non vado errato, e cercherò di non essere lungo come allora, furono due ore massacranti, non credo di dover tediarvi troppo. Comincerò con una battuta che ho raccolto su Past and Present, che dice più o meno così: pour faire de l'histoire, il faut savoir compter. Uno può accettarla, può non accettarla. È certo che la scienza storica, da quando si sono definite le regole del metodo critico, ha subito moltissime evoluzioni, autentici mutamenti nel dialogo con le scienze sociali, filosofiche, economiche, linguistiche e così via. Ne poteva essere diversamente in un secolo in cui si sono approfonditi i fondamenti epistemologici del nostro operare. L'irruzione delle cifre e della misura, segnando un nuovo approccio, ha comportato tecniche di indagine elaborate, ha costretto a interrogarsi sulla loro bontà, ha fatto gridare a una rivoluzione quantitativa in storia, o sentenziare apoditticamente e paradossalmente che per fare storia bisogna saper far di conto, saper sfruttare le macchine con le loro tecnologie. Non mancava contemporaneamente un invito alla prudenza, al di là dell'entusiasmo dei neofiti o degli iniziati al far di conto, come sono in fondo gli storici della formazione umanista, al di là delle immancabili critiche dei tradizionalisti o, soprattutto in Italia, dell'indifferenza pratica rispetto alle novità di Francia o del mondo anglosassone. Non v'è dubbio che quando si tratti di analizzare grandi complessi documentari di dati, dove l'ampiezza delle informazioni da sfruttare può impacciare la ricerca, il ricorso alla quantificazione può divenire necessario. Con l'avvertenza però, notava Leroy Ladurie in un articolo delle Nouvelle Observateur del 68, poi comparso in un'antologia di saggi che tutti voi conoscete, che ciò che conta è il problema da affrontare e da risolvere, magari problemi nuovi per metodo, per contenuto e ampiezza, in funzione dei quali si utilizzano tutti gli strumenti e le fonti di volta in volta a disposizione. E credo che comunque l'invito a ricordare pas de problème, pas de histoire non sia mai del tutto inutile. E alla luce di questa considerazione vorrei articolare la mia riflessione su alcune questioni significative che propongo alla vostra attenzione, per poter proseguire nella ricerca senza dimenticare né le finalità del nostro lavoro né l'esperienza già sedimentata nella tradizione storiografica e nel dibattito metodologico. Allora, i punti che vorrei trattare sono questi: in primo luogo la storia quantitativa stessa, in secondo luogo la natura della fonte in rapporto alle operazioni, alla codificazione della medesima, in terzo luogo il sistema di trattamento e della formalizzazione, in quarto luogo la procedura e il trattamento, anche alla luce di alcuni rilievi critici, e infine alcuni problemi o risultati desiderabili. Allora, la storia quantitativa, primo, misura, o dovrebbe misurare e computare tutto, trasforma le informazioni qualitative in numeri e cifre, intendendo accumularle e compararle. Lavoro non sempre gratificante, anzi deprimente, si è disteso nell'arco di mesi e di anni senza vedere all'orizzonte il più piccolo bagliore di una scoperta intellettuale. Negli anni 50 e 60 l'interesse per la demografia storica e per la storia sociale, che non può non essere quantitativa, diceva Furet, nell'ambito di un'estensione e allargamento delle fonti dovute alla storiografia francese, ha costretto a studiare e trovare metodologie adeguate, come ricorso ad esempio all'informatica e al calcolatore. Anzi, la demografia applicata alla storia vale quasi di più per la cascata dei suoi risultati, nota Chenu, magari affidabili, rapidi ad ottenersi ed efficaci dopo aver tritato, contato, condensato i dati medesimi. Ai registri parrocchiali, con la conta delle anime che tanto è affascinato Goubert, si affiancano presto i catasti, le iscrizioni, i testi linguistici, letterari poetici, giuridici, censimenti, ruoli fiscali e tagli, elenchi di stato civile, liste elettorali, registri contabili, eccetera. Se si passa al notarile si scopre che nella varietà degli atti, fra donazioni, emancipazioni, arbitraggi, paci private, procure e via dicendo, l'interesse si è orientato poi generalmente sui patti e contratti di matrimonio con doti, sui testamenti, oppure agli inventari, si è rivolto agli inventari post mortem maritorum, magari anche in funzione di ricerche prosopografiche. Quindi la scena si è arricchita di nuovi soggetti, di comportamenti collettivi e individuali, allargando il territorio dello storico, non senza fatica, anche a nuove tematiche, aventi per capo d'indagine anche gli oggetti e le immagini. ad ogni fonte testé elencata, ma se ne potrebbero aggiungere altre, si potrebbe anche porre accanto lo studioso che l'ha principalmente utilizzata, impostando un modello per ulteriori ricerche, ma questo non rientra un poco negli scopi. Mi preme piuttosto notare che i grandi numeri escludono il caso, senza però depotenziarlo nella sua specificità, mentre organizzano il passato in modelli esplicativi che simulano poi i processi sociali. Un caso in questa direzione potrebbe essere quello di Witold Kulla, quando ha formulato suo modello di sistema feudale. Certo che un modello coerente non vedo posizione fra quantitativo e qualitativo, anzi qualcuno ha sottolineato la reazione sì, ma soprattutto verso approcci pseudo-qualitativi, definibili anche come un quantitativo impressionista, identificati da una parte nella microstoria, che sviluppa il concetto paradossale di eccezionale normale, compiendo un'analisi che vorrebbe essere densa, di un avvenimento, di un fatto, di un rito, secondo modi antropologici, e dall'altra nelle generalizzazioni sorrette solamente dalla quantificazione, limitando l'analisi al puro quantificabile. Ora, attraverso quali percorsi logici, quali procedure opera la storia quantitativa una volta determinati problemi? Sostanzialmente attraverso alcune tappe, e cioè attraverso la costituzione di una serie, innanzitutto l'individuazione di un universo nel linguaggio statistico, poi la costituzione di una serie per mezzo cioè di un atto di raggruppamento di dati distinti ma relazionati in ordine alla descrizione dell'universo, descrizione di una griglia efficace, di un questionario con un contenuto numero di variabili con cui operare le osservazioni, e il questionario riflette gli interessi e i problemi del ricercatore, qualcuno l'ha definito un'intervista con i documenti del passato. Poi la ricerca delle correlazioni fra i dati a livello della loro interpretazione formale, resa da tavole, da grafici e simili. Le registrazioni sono unità logiche, a questo punto della documentazione fanno parte di una serie definita temporalmente e spazialmente e sono comparabili, nel senso che rispondono al questionario predisposto. Certo, anche le visite pastorali possono rispondere a queste caratteristiche, sono una fonte massiva quanto a diffusione, quantità e periodicità, anche se poi esistono differenze notevoli da una all'altra e in tempi differenti, e anche se rimane abbastanza limitata rispetto alle attese che magari uno si pone davanti alla fonte. Il fatto di promanare dalla medesima autorità ed istituzione non fa velo appunto alle differenziazioni esistenti anche all'interno delle visite compiute da un medesimo autore. E gli esempi potrebbero essere numerosi, ma un testo breve o laconico, un testo lungo, prolisso, non comportano modifiche di logica. Con ciò stiamo già parlando della natura della fonte in relazione ai problemi e alle tecniche che si intendono adottare in vista della loro risoluzione. Se ci si sofferma sul semplice aspetto esteriore, breve e lungo, a prescindere dai contenuti pure cangianti nel tempo, nel senso che al vecchio si aggiunge il nuovo, per sottrazione, per addizione, per modificazione e così via, non si potrà sfuggire all'impressione, che è poco quantitativa, di una crescita di formalità, ovvero di una formalizzazione sempre più minuziosa e dettagliata, sempre più burocratica e moderna, nello sfruttamento di questionari predisposti dalla medesima autorità o istituzione. Da questo punto di vista la visita è certamente testimonianza di ciò che il suo autore crede opportuno vedere e fare, testimonianza degli occhi del vescovo, ovvero di un orizzonte visivo delimitato soggettivamente, e bisogna tenerne conto come dispiegamento di una pastorale in un complesso umano concreto, in una società determinata, nel tempo e nello spazio, ma è soprattutto quest'ultima, la società, analizzabile a livelli diversi di complessità, sia pure attraverso un filtro visivo precostituito. E quindi i materiali così offerti all'indagine sono suscettibili di essere tradotti in espressioni quantitative in misure e in numeri. In passato ci sono stati tentativi embrionali, soprattutto da parte di chi si collegava con la sociologia religiosa e con le prime esperienze dell'Università Gregoriana negli anni 50, penso ad esempio anche al lavoro di Molinari, che per varie vie è arrivato anche più avanti. Certo è che la storiografia francese di fronte alla fonte ha seguito invece due strade, che a ben vedere hanno matrice unitaria proprio nella riflessione e nell'applicazione di una metodologia quantitativa su piani differenti. La prima via, ha elaborato questionari per problemi, sempre più ricchi e complessi, producendo ricerche specifiche e settoriali su tutta una visita o su una sua parte. La seconda via ha costruito un questionario che è a tutti voi ben noto, quello che è il questionario francese pubblicato nel nostro volume, finalizzato ad essere sussidio per future ricerche. Però questo è stato utilizzato ad un livello quantitativo impressionista, ad esempio nella elaborazione di alcuni saggi della Fréchet-Chopard o anche dello stesso Vauvel, che dà una cartografia delle preoccupazioni episcopali sulle confraternite, ad esempio, ma senza andare oltre. Il quantitativo ha attraversato una stagione felice negli anni 70, ma non in Italia, in fondo, anche per l'apertura di fronti diversi da quelli tradizionali. Nel corso degli anni 70 abbiamo visto l'emergere a livello europeo di moltissime riviste legate a storia e computer. Negli anni 80 poi è stata un'inflazione. La più nota è Computers and Humanities dal 67, le medieviste e l'ordinateur dal 79, il bollettino del centro della normale di Pisa dall'80, poi ancora Informatique et Statistique dans les Sciences Humaines dall'86, Histoire et Mesure stesso anno, History and Computing dall'89 e così via. Non solo, ma sono nati anche tutta una serie di centri di studi, associazioni internazionali per storia e computer, laboratori di informatica per le scienze dell'uomo, ricerca storico-sociale e così via. C'è il rischio che questi bollettini, un rischio anche molto evidente, il rischio di una eccessiva specializzazione abbinato a un eccesso di informazione tecnica, cioè si dà grandissimo rilievo a tutta la parte preliminare e poi se arriva anche qualche dato, in fondo voglio dire fa anche piacere, ma l'attenzione è concentrata proprio su questi aspetti. Per inciso di questi centri c'è qualche succursale italiana, anche ad esempio a Bologna. In Italia si sono applicati soprattutto gli studiosi di storia dell'arte, i medievisti, i linguisti e direi che fra gli storici moderni e contemporanei non c'è stato grande interesse, se una rivista come Quaderni Storici non ha trovato di meglio che pubblicare un articolo di un membro del Max Planck Institute con una domanda di questo tipo: possiamo permetterci di usare il computer? Possiamo permetterci di non usarlo? Chiaro che è una domanda di tipo retorico, ma non si vede un grande interesse in questa direzione, anche perché poi la cosa non è così semplice e richiede anche appunto delle riflessioni. Secondo punto, la natura del documento va posta al centro dell'attenzione, tanto più quanto più attraverso operazioni tecniche si costituiscono delle fonti nuove, si creano documenti grazie alla digestione del loro contenuto da parte della macchina. A quel punto l'esistenza degli originali sta a monte. Certo, i dati possono essere conservati anche per i futuri ricercatori che vogliano ricavarne correlazioni inedite, quindi c'è un problema anche di uso molteplice dei dati in questo modo elaborati. Mi sembra però perciò opportuno svolgere qualche considerazione sia sulla forma che sul contenuto della fonte, perché innegabilmente occorre valutare le deformazioni provenienti dal carattere istituzionale, la stessa rappresentatività del materiale documentario. È evidente che la sua casualità quanto l'inadeguata rappresentatività incidono su un'analisi corretta, limitandola gravemente o falsandola, soprattutto quando non risulta integra per aree o periodi determinati, anche se non mancano degli accorgimenti desunti dalla prassi, e me ne sono alcuni che possono essere così assunti proprio grazie alle scienze sociali applicate. Per quanto riguarda la forma e lo stesso contenuto, bisogna pensare che essa è connessa con l'istituto che origina la fonte. La visita è una fonte istituzionale connessa a macrofenomeni e nasce da motivazioni specifiche, con determinati scopi di utilità pratica rispondenti a immediate e concrete esigenze dell'istituto promotore. Il testo visitale, a parte ma non a prescindere dalle coordinate spazio-temporali, si presenta con alcune caratteristiche sommarie che vorrei richiamare. L'estensione, che si offre in segno di una discreta variabilità, connessa con la promozione, con l'autore, con la disponibilità di tempo, la tradizione curiale, la conservazione documentaria e così via, e occorre naturalmente valutarne peso e motivazioni. Oltre all'estensione, la divisione fra una descrizione vera e propria e gli ordini dati, ovvero fra i provvedimenti canonico-pastorali di tipo normativo. Questi costituiscono l'esito, il prodotto formale della visita medesima. Entrambi, come documenti redatti nel corso dell'operazione, sono necessari per il controllo e la descrizione dei dati. C'è un terzo, una terza caratteristica, la distinzione dal materiale preparatorio, che fa parte dell'atto come operazione amministrativa ed è costituito da questionari preliminari, da elenchi vari, inchieste, rilevazioni e simili, e quando è conservato permette non solo una certa forma di controllo delle informazioni, ma anche di arricchirle sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. C'è una traccia anche nella stessa organizzazione archivistica, ad esempio penso all'archivio Vescovile di Verona, dove si distinguono le visite dagli ordinata, dalle inchieste e dalle scritture afferenti, in maniera molto chiara e molto netta. Naturalmente si potrebbe anche tener conto di una serie di altri fattori, ma questi mi paiono giusti da ricordare. La conoscenza dell'istituzione, del suo modo di procedere, può aiutare nella valutazione di alcuni elementi, nella congruità anche nei loro presumibili scostamenti dalla realtà, a partire da alcune grandezze. Prendiamo il caso, ad esempio, dei disordini ed abusi, la prima tabella che è fatta ma in maniera molto sommaria. I dati che vi sono offerti nelle tabelle non sono dati, sono solo dati quantitativi che servono per spiegare un poco alcune questioni o sollecitare alcuni problemi relativi e connessi alla fonte. Ad esempio, in tema di culto e di morale, desumibili dalla visita della Bergamasca. Si tratta di dati reali o di dati inferiori alla realtà? Nel senso che si tende a presentare un volto migliore, ovvero il rilevatore si fonda sui valori numerici, esatti, a differenza di altre situazioni, ad esempio penso visita del 400 o ancora del 500, dove compare molto spesso 100 vel circa, tanto per fare un esempio diffuso, ma frutto di valutazioni approssimative, non sappiamo se per eccesso o più probabile per difetto. Anche se non ci si deve fidare ciecamente, i dati della fonte possiedono però una loro verità, così a volte non si sa quanto si sarebbe dovuto fare né quanto è stato in effetti realizzato, tuttavia per certo si conosce la situazione di quel momento. Ed è comunque importante avere ben presente allora il quadro del contenuto della fonte. In questa direzione suggerimenti consistenti sono offerti dalla proposta di questionario elaborato in Francia e in parte anche da quella che abbiamo elaborato qui, ma siccome le conoscete non sto a riprenderle direttamente. Certo è che il contenuto della fonte segue uno schema che usualmente o molto spesso tocca cose e persone, edifici sacri e condizioni giuridico-economiche, personale ecclesiastico, aspetti cultuali, i fedeli buoni ultimi e così via. Il soggettario può suggerire piste di ricerca e va sfruttato a partire dai problemi che si intendono affrontare, ma non è esso stesso ricerca. Per compiere questa operazione bisogna passare dal repertorio, pure utile e pure codificato, sulla visita, direttamente alla visita concreta. Un'operazione in qualche modo pionieristica in questa direzione è stata compiuta dalla Tarchi, che è qui presente, con la presentazione di un progetto di indicizzazione automatica degli atti di visita, sperimentato solo su un campione in area fiorentina, ma ce lo dirà meglio lei. Non ci si stupisca di vedere una ricerca, in questo caso venire dall'ambito storico-artistico, maturata all'interno di un progetto e di un campo di studi che in quegli anni, siamo nella seconda metà degli anni Ottanta, stava attrezzandosi al caso, discutendo e operando soprattutto col sistema STERS IBM. Evidentemente l'angolo di osservazione è limitato dall'interesse di natura storico-artistica, ma ciò ne costituisce anche il pregio, perché focalizza le informazioni relative, ad esempio icone o immagini. Qui mi ricordo una discussione che avemmo in quel seminario della Normale di Pisa. E da questo punto di vista si potrebbe fare anche un confronto con quanto veniva elaborato o computato per Ferrara nella ricerca di Peverada, ad esempio, che dà alcune indicazioni in questa direzione molto sommarie per la tipologia, ad esempio, dei lavori da eseguirsi in chiesa, o in anni precedenti, ad esempio in area comasca, potete vedere la tavola 2, o in area un po' più tardi in area veronese per Custozza. Cioè, qui una schematizzazione, una presentazione grafica che mette insieme più dati. Si potrebbe fare un discorso su ognuna di queste tabelle, ma in fondo fanno parte, se volete, della storia degli studi, anche se poi non sono mai state tenute presenti per ciò che potevano darci. La presentazione dei risultati sotto forma di tavole e di grafici segnala un'attenzione alla storia quantitativa, mancante tuttavia di un adeguato supporto tecnico e anche il desiderio di procedere oltre, nonostante tutte le difficoltà e i limiti che si possono trovare. Ci possiamo trovare di fronte anche a modi di procedere buoni, ma abbastanza tradizionali. Il caso della Lemaître, invece, che è poi... che ha prodotto poi questo libro uscito nell'88, è un caso che si pone all'attenzione perché ha sviluppato nell'86 una riflessione teorica sul rapporto tra visite pastorali e sistemi computazionali e dall'altra perché si è impegnata effettivamente nella ricerca. Però in alcuni casi si limita a tematizzare un ordine dato, ad esempio, senza precisarne la natura. In qualche altro caso abbina nella stessa tavola elementi che avrebbero dovuto stare disgiunti e si potrebbero fare anche delle altre critiche. E con tutto ciò però questo lavoro indica delle possibilità di lavoro, stimola a ulteriori progressi. E per restare in ambito storico-artistico, ad esempio la Lemaître riesce a puntualizzare non solo le prescrizioni relative all'edificio ecclesiastico in generale, ma anche i suoi particolari, quindi non solo esamina rifacimenti, imbiancature, pavimentazioni, chiusure e simili, ma anche interventi in cappelle, sulle finestre, sui vetri. Però anche qui, appunto, occorre chiedersi se vi è un rapporto con lo stato spirituale della parrocchia, permettendo così una geografia significativa delle attitudini religiose, oppure se non esiste, offrendosi all'evidenza solo il riflesso dell'occhio del visitatore. Bene, qualsiasi domanda ci si ponga significa manipolare comunque una discreta massa di materiali e di variabili. E questo qui è fatto all'interno di questo libro che merita attenzione, anche perché è il primo caso che abbiamo a disposizione di una ricerca pratica condotta sul campo. Punto 3. La codificazione dei dati svolge una funzione operativa, ma suggerisce e richiede previamente una riflessione critica, costringendo lo storico o ricercatore a esplicitare nel modo più rigoroso le proprie ipotesi di lavoro, a definire il metodo per chiarire o tentare di chiarire i fenomeni o i problemi oggetto di indagini e le modalità più appropriate di descrizione. Precisare la modalità dei fenomeni, valutare la congruità della fonte con le prospettive di ricerca, esporre la logica a cui ricorrere per ottenere questi dati, controllare la rete logica delle spiegazioni e così via, sono alcune operazioni preliminari e non aggiuntive. Senza questi altri tipi di valutazioni, senza formulazioni di ipotesi qualitative e orientatrici, non è possibile ottenere dati significativi né giungere alla loro interpretazione. Da questo punto di vista io così presento un modello che è stato convalidato nel campo delle scienze sociali, che riassume molte operazioni logiche. È forse una cosa banale, ma io l'ho comunque allegato, è la tavola seguente. È stato provato in una ricerca ancora 10 anni fa, Religione e Famiglia nel Sud, e utilizza, fra l'altro, una ricerca che ha utilizzato poi un manuale di analisi fattoriale francese che ancora oggi è in uso presso i maggiori centri di ricerca di scienze sociali italiane. In questo schema l'utilizzo della macchina si pone solo a un certo punto. Certamente con la macchina la responsabilità scientifica viene accentuata, non solo e non tanto a livello di esattezza delle informazioni, quanto piuttosto a livello di orientamento delle stesse. È un'operazione che ha sempre fatto parte del nostro normale esercizio, nel nostro mestiere, ma ora richiede la chiarezza dei procedimenti logici esplicitata. La macchina elabora i dati che le sono forniti, eppure la stessa immissione comporta lo studio delle convenzioni necessarie per consentirle l'acquisizione delle informazioni. Ci si può trovare davanti a problemi linguistici, problemi lessicali, prima ricordavo la discussione fra icona e mago, altri problemi tutti da sciogliere. Anche la stessa contestualizzazione dei dati linguistici, ad esempio sul versante di chi li ha formulati, obbliga a fornire congrui elementi di giudizio. E l'analisi va associata all'emissione dei dati senza rinviare al giorno in cui si deve affrontare la macchina, intervenendo di volta in volta e imponendo di volta in volta le necessarie e indispensabili correzioni logiche. Qui io salto qui una parte relativa ad esempio a come si può riformulare, avendo davanti i dati, una tabella 5, ad esempio i livelli di preparazione del clororeattino, Di Flavio ha posto in una tabella i suoi dati, ha fornito tutte le indicazioni e dico, con un semplice lavoro di rilettura dei dati da lui offerti, gli stessi dati dicono un'altra cosa. Qualcuno ha osservato che teoricamente, elaborando i dati, si può far dire alla fonte tutto e il contrario di tutto. È evidente che non solo la sostanziale omogeneità della strutturazione dei materiali, la fonte base con informazioni dello stesso tipo, benché di contenuto variabile, ma anche del tipo di informazioni da esse fornito, garantisce la possibilità di formalizzare le regole di comparazione, che permettono di trattare i prodotti sulla base, ad esempio, dei criteri presente, assente, uguale, compatibile, differente e così via a livello orizzontale e anche nell'ambito verticale, tali per cui l'universo statistico si presenti con le stesse caratteristiche e la lista delle modalità sia esaustiva, sia nell'individuare i caratteri espressivi quanto le modalità medesime con cui questi si possono manifestare nell'universo stesso. Anche di qui emerge la necessità di sottoporre la fonte ad una prima lettura, anche per ragioni paleografiche, ad un preesame, a una prima indagine, intesa all'individuazione di una griglia informatica con le sue opzioni, tale da permettere non solo di contare, ma anche poi e soprattutto di correlare i dati. La griglia preliminare permette di intervenire su aspetti sia qualitativi che quantitativi, di costruire un dizionario, un lemmario di items, di voci, suscettibile di arricchimento e di modifiche ai fini della migliore classificazione prima dell'analisi globale. Prudente discernimento ed obbligo nell'individuazione delle variabili di cui bisogna dare conto. Questa mi pare anche una cosa abbastanza importante. E prima di passare oltre, lasciatemi porre a questo punto due questioni richiedenti entrambe una decisione in qualche modo preliminare. La prima concerne la scelta del programma, e qui l'offerta è ricchissima. Tutti questi centri che io prima ricordavo di studi storia informatica e tutte queste riviste presentano una serie molto ricca di ricerche, ognuna delle quali presenta a sua volta una serie di programmi. E si danno, per la scelta del programma, si danno alcune possibilità, ad esempio incaricare una società di servizi informatici di creare un programma su misura, si può acquistare un programma combinatorio sperimentato e noto, magari prodotto da centri di ricerca storico-sociale, costruire un programma appropriato e modulato sulle esigenze specifiche, in collaborazione con gli esperti. Ogni opzione ha vantaggi e svantaggi, può semplificare o complicare il lavoro. La seconda questione preliminare concerne le scelte della procedura, ad esempio utilizzo della microinformatica sempre più sofisticata, ricorso a centri di calcolo, ad esempio queste possono essere due grandi opzioni, e poi ci possono essere anche tutte le opzioni intermedie, uso combinato delle medesime. Quarto punto, Veniamo alla procedura al trattamento dei dati, con alcuni rilievi critici. Forse si tratta di considerazioni banali, forse sono scontate, ma comunque mi permetto di ricordarle o richiamarle alla mente. Ci collochiamo a questo punto non sul versante dei dati della fonte, con la loro struttura e la loro logica, e i loro problemi, ma sul versante dei dati trasformati, su un piano applicativo con la sua struttura e la sua logica. E direi che da questo punto di vista vorrei richiamare appunto le procedure di immissione dei dati compendiate in quattro operazioni cronologicamente seguenti: saggio, assaggio e prova dei dati, controllo di validità dei dati, correzione dei dati dello schedario, organizzazione dei dati. E qui non è poi indifferente il metodo di trattamento da scegliere. In primo luogo dobbiamo mettere la descrizione o analisi minima dei dati. E da questo punto di vista tutti potrebbero in qualche modo operare. Alla portata di tutti, la descrizione o analisi minima dei dati offre risultati tangibili anche nell'elaborazione di tesi di laurea, condotte dirette con sorveglianza critica e attenzione alle problematiche. E io credo che ad esempio la dottoressa Marocchi ci dirà qualche cosa partendo dal caso Imolese. Ma si può adottare anche un metodo statistico descrittivo un pochettino più attento e si possono conseguire risultati, ad esempio, se si opera sui rapporti di composizione, di derivazione, di densità, di coesistenza o i rapporti incrementali dei dati medesimi, per non parlare poi di medie, mediane e quantità, mode, misure di variabilità, indici assoluti relativi di variabilità, eccetera, eccetera, per arrivare a interpolazioni ed estrapolazioni. Io su questo non dico nulla, dico solo che ad esempio la tavola 5 è una elaborazione estremamente sommaria, dove potete vedere una serie di numeri pari, che sono appunto quei vel circa che ricordavo prima, ma su questa tavola si potrebbero fare una serie di operazioni correlandola con i dati della visita, partiti, divisi e per insiemi omogenei. Con questo siamo ancora a un trattamento molto semplice dei dati, non è certo il meno ricco, perché permette anche una vasta gamma di relazioni, facendo intervenire più variabili. La Lemaître, ad esempio, ha ottenuto una lista per zone geografiche, per frequenze semplici, ha valutato poi i risultati e ha scelto le modalità da raggruppare o da dissociare in una seconda battuta. Talora direi che comunque io questi dati, questi metodi che vengono dalla statistica, dalle scienze storico-sociali, li ho richiamati perché generalmente noi tendiamo a metterli fra parentesi o dimenticarli. Sono utilizzabili anche quando si operi con il computer. Si hanno a disposizione anche dei metodi probabilistici che permettono, ad esempio, l'analisi fattoriale o l'analisi di regressione. Non sto qui a dire che cosa siano, dico semplicemente che ad esempio attraverso l'analisi fattoriale si può andare a un livello superiore e ulteriore di analisi dei dati. Si possono prendere anche delle bufale, naturalmente. La Lemaître, ad esempio, ha potuto provare l'esistenza, faccio vedere la scoperta dell'acqua calda, di un questionario soggiacente alla sua visita pastorale. Però ha messo in luce anche alcuni comportamenti che erano semplicemente supposti o supponibili e che tali sarebbero rimasti in relazione, ad esempio, all'arredo sacro o ad alcuni aspetti materiali dell'edificio ecclesiastico. E proprio per questo, dice, si hanno risultati da valutare con prudenza. Ho presentato anche un modellino di tavola 7, un modellino che è vecchio, ma un modellino abbastanza logico, che spiega solo in parte il funzionamento dell'analisi fattoriale, cioè la spiegazione dell'analisi fattoriale, come funziona, interagisce l'analisi fattoriale nell'ambito, ad esempio, di ricerche di storia della mentalità. E il lavoro, io qui non ho tutta la scheda completa, nella fretta non l'ho fatta, comunque è un lavoro edito nel 79, curato da Vauvel. In realtà il modellino è stato fatto anche prima ed è relazionato a un corpus iconografico. Il trattamento dei dati può distorcere la complessità del reale, può imporre una certezza artificiale rispetto alla realtà. E allora in questo esito hanno un peso alcuni errori nell'interpretazione, nella trascrizione, nella registrazione e codificazione del testo. E la fonte deve essere offerta sempre nel modo più semplice ed economico, e inoltre anche un peso hanno alcuni errori nei procedimenti di classificazione e di spoglio, e anche nelle stesse correlazioni. Tutto ciò incide sull'efficacia dei metodi computazionali, o meglio suscita il problema della loro efficacia e tocca il mezzo operativo. Ma non è la macchina a produrre esiti discutibili. Si possono adottare tecniche di manipolazione più sofisticate fino a cadere nella maniacalità. Ma non sono neppure le tecniche. Il risultato criticabile è sempre imputabile alle scelte compiute nei vari momenti da ricercatore, anche nelle fasi più noiose. Mentre per la valutazione dei dati vale, anche questa è una riscoperta, una battuta se volete, di Henri Baire, Revue des Synthèses 1890, Les chiffres et muets, il faut savoir les faire parler. In altre parole, bisogna far saper parlare gli stessi dati. Cioè, anche per far parlare i dati desunti dalla documentazione, c'è un'operazione che ricade nel non quantificato, nel non quantificabile, ricade cioè sotto l'intelligenza di chi legge e di chi commenta. E per questo siamo costretti, adottando certe tecniche, a migliorare la pratica del nostro lavoro, se non certo alla luce della fantasia, certo all'insegna di un maggior rigore e di una raddoppiata e vigile prudenza. E da questo punto di vista da un punto di vista operativo potrei individuare, facendo riferimento all'originale in prima istanza, alcune possibilità, una eccezionale e una più normale. Quella eccezionale è il testo critico. Una volta compiuto e messo interamente memorizzato, è suscettibile di qualsiasi utilizzazione, anche con tutti gli indici, in perfetta aderenza anche linguistica, così la fonte è accessibile, edita, elaborata. Era una riflessione che faceva già Luzzatti nel 1977 per i battesimi di Pisa. È una fonte consultabile a livello di testo e anche di trasformazioni codificate dello stesso testo. Ma l'edizione stampata non costituisce che uno dei risultati del lavoro, perché dal nostro punto di vista sarebbe monca senza le analisi permesse dalla base dei dati disponibili e dalla pubblicazione dei medesimi con commento. Però l'edizione della fonte è utile quando si ritenga la fonte importante per sé e non in relazione alle operazioni che vi si potrebbero compiere. E credo che sia Gates che De Sandre da questo punto di vista avranno certamente qualcosa da dire. Un'altra possibilità potrebbero essere i dati, diciamo così, puri e semplici, ordinati in tavole, tabelle, grafici, rappresentazioni cartografiche, a seconda dell'opportunità e dell'efficacia di presentazione dei medesimi, rispondono alle domande e ai problemi della ricerca. Ecco, l'edizione dei dati prescinde dall'edizione del testo e soddisfa comunque egualmente universi ampi e articolati quanto a saggi più limitati. Si può porre, nell'uno e nell'altro caso, il problema della verificabilità dei dati, quello del loro riuso o della loro rianalisi con modelli concettuali con opzioni diverse. Pluralità esecutive diverse nella fonte, pluralità di approcci tecnici, di problemi, comportano opzioni non alternative, ma il discorso porterebbe troppo lontano. E qui sono costretto a fare una postilla. Questo tipo di approccio, da qualsiasi punto di vista si consideri, lascia sul campo una vittima illustre, con tutti gli onori per quanto dato, per quanto offerto e per quanto ha stimolato, lasciando un po' di amaro in bocca per le discussioni non inutili né oziose, voglio dire l'ipotesi di regestazione delle visite pastorali. Usciranno ancora lavori di questo tipo, ma a mio avviso saranno prodotti tardivi e fuori stagione, superati anche rispetto all'intenzionalità di chi ne animava le mosse, a meno che non si dibatti la prospettiva di quei lavori e si incentri tutto proprio nello studio e quindi nell'elaborazione dati della fonte. E mi avvio alla conclusione, visto che siamo abbastanza avanti. Quali risultati si possono sperare da un trattamento della fonte? Credo che quantità e qualità non siano antinomiche e che sia prevedibile una crescita di qualità negli studi. È un auspicio, un desiderio. Ad esempio dal punto di vista dei tempi di ricerca. si mettono dati per lungo tempo e poi in pochissimo tempo macchina sono sfornate in uscita moltissimi elaborati con richiesta di particolari sui quali però occorre poi ancora ulteriormente intervenire. Io credo che almeno sul piano quantitativo e qualitativo si sia giunti per varie strade che verranno poi illustrate qui in questi giorni a indagini più sofisticate necessarie a una certa soglia o volume dei dati. La loro massa impone il trattamento, aprendo altresì problemi di ordine tecnico e metodologico che in parte alcuni di voi hanno sperimentato e che in parte ho cercato solo di organizzare in maniera astratta. Ma un certo volume di dati, se fornisce certe condizioni e risultati soddisfacenti, con un buon grado di sicurezza, costituisce anche un indiscutibile salto qualitativo. La stessa operazione tecnica dovrebbe permettere di non rinunciare ai dettagli, alle informazioni minori, a tutte le caratteristiche del soggetto preso in esame entro la totalità dell'universo. Il vantaggio di poter esercitare un controllo operativo sull'esattezza dei risultati è però condizione necessaria, ma non sufficiente, per fare un buon lavoro. Il livello qualitativo sarà sempre più orientato verso la comparazione nel tempo, nello spazio, nei contenuti, secondo universi omogenei comparabili, almeno in parte, come sono quelli offerti dalle visite. Alla comparazione più spesso proclamata che praticata, invita la trattazione dei dati che su di essa riposa. Griglia, serie e così via sono procedimenti comparativi tipici. Anche se attraverso di essa si decontestualizza, o si potrebbe decontestualizzare per definizione ciò che non lo è in realtà, come realtà sociali separate nello spazio se non nel tempo, è comunque legittima a patto di non farle dire di più di quanto supporti e possa. Senza dimenticare insomma che un vicariato milanese o un casale dell'entroterra napoletano nella seconda metà del XVI secolo hanno una popolazione superiore a quella di una piccolissima diocesi meridionale. Problemi e contesti differenti, certo, ma anche la quantità della popolazione pesa nel far sì che territori diocesani non siano equivalenti, sicché assumendo ad esempio come cardine base, come variabile indipendente la popolazione, si potrebbe produrre una rappresentazione cartografica reale e al tempo stesso deformata. I geografi l'hanno fatto delle carte proprio tenendo conto di questa realtà. Analogo discorso potrebbe farsi per il tempo, il cui mutamento è sostanza per noi, o per alcuni denominatori comuni a livello di contenuto. Dalla comparazione, insomma, viene anche un'attenzione alla complessità della realtà, che non è solo pura quantità, né è compendiabile nei dati semplici o elaborati desunti dalla fonte. Perché adesso siamo debitori anche di distorsioni, di silenzi, ad esempio sulla marginalità religiosa. E la fonte, però, opportunamente sollecitata, può dare più di quanto si immagini sugli atteggiamenti e sui comportamenti censurati o censurabili o devianti della popolazione. Ma non si può mai prescindere dalla sua matrice o dalla sua natura, chiedendo di soddisfare a esigenze di una storia, ad esempio, dell'eresia, anche se coloro che si occupano di questa magari lo pretenderebbero, forse come fonte secondaria sì. Peraltro bisognerà rivolgersi invece a fonti specifiche e più appropriate. Qui non chiederò io, ad esempio, come ovvio, sugli interventi di governo o sugli indirizzi pastorali del Vescovo in prima istanza. Quindi direi che i materiali devono essere così valutati in funzione dei problemi, cercando di andare al di là dell'occhio dei visitatori. L'intervento valutativo si situa nel momento preparatorio, riappare in quello dell'utilizzazione, sorveglia il lavoro nel suo dispiegarsi. L'informatica risponde, ad esempio, a questioni che si sono poste, può correre il rischio di deformare però il lavoro. Dall'altra può esaltare decisamente la sperimentazione e il lavoro di laboratorio. In fondo, quando un piatto è bello, ricco e guarnito, però se noi pensiamo a tutto il lavoro della cucina e tutto il resto, c'è ancora appunto parecchio da fare. Da questo punto di vista io credo che i problemi su cui dobbiamo riflettere, su cui abbiamo riflettuto, sono, cui rifletteremo, sono una base di fatti, di regole e di ordine applicativo. Io credo di avere con questo così di avervi tediato abbastanza, e c'era un'altra parte che volevo sottolineare, quella di tener conto che appunto esistono problemi relativi sia alla ricerca da una parte che alla possibilità di mettere in campo delle forze che interagiscono fra di loro per quanto riguarda questo materiale delle visite pastorali italiane, che è così profondamente disperso, come tutti sappiamo, non godendo della stessa opportunità che hanno i francesi di trovarlo bello raccolto, bello inventariato e bello schedato, anche perché se pensiamo ad esempio a un'operazione di tipo comparativo, dico a proposito di utopie, anche io ne posso esprimere una, se prendiamo ipoteticamente per unità base, dico teorica, ad esempio una parrocchia, bene, effettuare un campione a livello nazionale sulle parrocchie in questo momento teoricamente è impossibile, non avendo a disposizione la conoscenza delle parrocchie. Teoricamente, in base a calcoli di tipo probabilistico, uno campionando un certo numero di parrocchie a livello italiano potrebbe in un determinato momento effettuare un'analisi probabile, con margine di errore probabile, di una realtà, di una situazione, per alcuni aspetti con tutta una serie di limiti, ma certo da questo punto di vista potremmo così andare anche molto avanti, però appunto potremmo andare anche molto avanti nel tempo, cioè fra 20 anni forse. Grazie.